Europa 24. Buongiorno da Maria Piera Ceci. Tutto come annunciato, la Commissione europea ha presentato questa mattina i suoi giudizi sui piani di stabilità dei paesi della zona euro, Italia compresa. Les applications en termes de procédure pour déficit excessif devront être discutées le moment venu. Pour trois pays, la France, l'Italie et la Belgique, la Commission examinera début mars 2015 leur situation vis-à-vis du pacte de stabilité et de croissance. Rimandando a marzo il giudizio finale per tre paesi, Francia, Italia e Belgio, state sentendo un brano della conferenza stampa del commissario europeo Pierre Moscovici. Ai primi di marzo decideremo se è necessario adottare ulteriori misure quando avremo un quadro più chiaro sul mantenimento degli impegni di riforma da parte dei governi. Il tempo che resta non può essere tempo perso, bisogna che le cose avanzino da qui a marzo o la Commissione non esiterà ad assumersi le sue responsabilità. Proseguendo con le procedure di infrazione, ha avvertito Moscovici rivolgendosi appunto ad Italia, Francia e Belgio. La Commissione europea applica scrupolosamente le regole, ma ha deciso di non precipitare decisioni che sarebbero potute essere contestate, sono ancora parole di Moscovici. Concedere più tempo a Italia, Francia e Belgio ha per noi un senso politico ed economico. Un piccolo sforzo suppletivo si può richiedere sul fronte delle riforme strutturali. Su questo c'è un dialogo costruttivo con il governo italiano. Queste dunque le parole di Moscovici, ma sentiamo i dettagli dal nostro Beda Romano da Bruxelles. La Commissione europea ha riconosciuto stamani la difficile situazione economica italiana e ha quindi preferito non chiedere nuove misure di bilancio, nonostante la finanziaria per il 2015, attualmente in discussione in Parlamento, sia a rischio di violazione del patto di stabilità e di crescita. Tuttavia, l'esecutivo comunitario, che effettuerà una nuova analisi della situazione in marzo, chiede all'Italia, in un'attesa opinione pubblicata qui a Bruxelles stamani, di rispettare le regole europee, mettendo però l'accento sulle riforme economiche più che sul risanamento dei conti pubblici. In questo momento l'esecutivo comunitario, da poco presieduto dall'ex premier lussemburghese Jean-Claude Juncker, vuole facilitare il sostegno dell'economia, evitando misure restrittive di finanza pubblica, consapevole che solo con la crescita economica è possibile ridurre l'elevato debito pubblico, in particolare italiano. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. I giudizi della Commissione europea arrivano nel giorno in cui vengono comunicati nuovi dati sull'occupazione. Eurostat certifica che il tasso resta stabile nell'eurozona all'11,5%, stabile nell'Europa 28 al 10%. Se la passano meglio in Germania e in Austria con un tasso intorno al 5%, peggio in Grecia e Spagna che superano il 20% ma che comunque migliorano. La palma del maggior incremento se la giudica l'Italia, che registra la peggior performance. E la situazione si chiarisce nei dati Istat. A ottobre il tasso di disoccupazione è salito al 13,2%. Massimo storico. Tra i giovani fra i 15 e i 24 anni supera il 43%. Alla base dell'aumento il calo dell'occupazione nel mese di ottobre e la flessione dell'inattività, il che vuol dire che più persone si sono messe alla ricerca di un impiego. Considerando il terzo trimestre, che coincide con l'estate, l'occupazione è cresciuta, ma va tenuto conto della stagionalità di alcuni lavori. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questa mattina sono arrivate le parole di Giorgio Napolitano sui temi europei. I temi politici e economici dell'Unione Europea in quest'ultimo periodo sono diventati dominanti nel dibattito europeo. Eppure, essendo temi molto controversi, ha detto il capo dello Stato, hanno assorbito totalmente l'attenzione anche passando attraverso distorsioni e drammatizzazioni oltre ogni limite. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.